Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli Invisibili di Nanni Balestrini, parte ventunesima. Qualche giorno prima dell'inizio del processo sono arrivati nel braccetto anche Gelso e Ortica. Io li aspettavo con molta ansia perché era così tanto tempo che non li vedevo. Gelso era stato arrestato quando ero stato arrestato io, ma era stato messo subito in uno speciale, ancora più giù al sud, e in tutto questo tempo non avevo avuto più notizie di lui. Ortica invece era stato arrestato solo qualche mese fa e era finito nello stesso speciale di Gelso. Io ero molto ansioso, emozionato di rivedere i miei compagni dallo spioncino. Li ho visti arrivare in fondo al corridoio, circondati dalle guardie. Ortica era carico di zaini. Gelso non aveva niente, per un momento non l'ho nemmeno riconosciuto. Era magrissimo, i capelli corti, senza occhiali, guardava davanti a sé senza rispondere ai saluti degli spioncini delle celle. Allora li ho chiamati e Ortica ha sentito subito, mi ha riconosciuto anche se non mi poteva vedere perché le guardie li stavano mettendo in una cella un po' lontana dalla mia. Ho sentito la voce di Ortica che mi chiamava e mi diceva «Dove sei?». Poi schiacciando la faccia contro lo spioncino l'ho visto per un attimo in mezzo al corridoio che agitava un braccio per salutarmi mentre una guardia lo tirava indietro per l'altro braccio. Io appena li hanno chiusi dentro ho chiamato il brigadiere e gli ho detto che erano miei coimputati, che erano lì per il mio stesso processo e ho scritto subito la domandina perché potessero venire nella mia cella dove ero solo. Il brigadiere mi ha detto che la portava in direzione e che forse la sera stessa si poteva fare il trasferimento di cella. Io intanto mi sono messo subito a preparare la scena per Gelso e Ortica. Nella mia cella non avevo molta roba. Ho chiamato il lavorante per mandarlo nelle altre celle per farmi dare della roba, del vino soprattutto. Intanto ho scopato per terra e ho lavato anche con lo straccio il pavimento. Ho tolto il materasso dalla branda perché non c'era tavolo nella cella, ma solo un pezzetto di lamiera rigida fissata al muro. Quando il lavorante è tornato, mi ha portato 3 bottiglie di plastica d'acqua minerale, con dentro un quartino di vino rosso, che così lo vendono alla spesa, e altra roba, che non era un granché. E allora non sapevo come fare, perché volevo fare una bella scena per i miei amici. E allora ho pensato di fare un dolce. Avevo in cella 2 bustine per fare i budini. Ho fatto 2 budini, uno al cioccolato e uno alla vaniglia, scaldando il latte in un pentolino sul fornello. E poi li ho messi a raffreddare fuori dalla finestra, in 2 scodelle di plastica. Ho fatto il caffè, ci ho inzuppato dentro dei biscotti secchi e poi su un piatto ho messo a strati il budino e i biscotti. Ho sbattuto un bianco d'uovo con lo zucchero fino a farlo montare in una crema bianca. Ho messo sopra tutto e sulla branda ho messo un lenzuolo bianco pulito, poi ho svitato il fornello a gas e ci ho avvitato un cono di stagnola da cui la fiammella usciva come una candela. Ho spento la luce e stavo apparecchiando quando la guardia ha aperto la blindata e ha fatto entrare Ortica, ma Gelso non c'era e Ortica mi ha detto che mi avrebbe spiegato dopo che ci siamo abbracciati e appena le guardie se ne sono andate mi ha detto che Gelso stava male di testa, era già parecchio tempo che non stava bene, non sopportava più il carcere, in un primo tempo parlava solo di evasioni, poi ha cominciato a non parlare più, con nessuno. Sembrava che non riconosceva più le persone, non voleva più parlare con nessuno. E poi si metteva anche nell'ora d'aria a camminare a quattro zampe nel cortile, ringhiando e facendo delle smorfie, come un pazzo. Borbottava che se era un cane l'avrebbero lasciato uscire. Avevo preparato per cominciare delle tartine con delle fette di salame e un po' di maionese. Abbiamo cominciato a mangiare e Ortica ha cominciato a raccontarmi la storia di Scilla. Io avevo già sentito qualche voce che circolava, ma non ci avevo creduto. Mi sembrava impossibile quello che si diceva, che Scilla era diventato una spia, un delatore, che aveva tradito i compagni, anche se lui a me non mi era mai stato simpatico. Però Ortica mi ha raccontato che ormai tutti i compagni fuori avevano la certezza che Scilla era diventato confidente dei carabinieri, che aveva fatto arrestare un sacco di compagni. Tutto era cominciato quando i carabinieri gli hanno fatto una perquisizione e o perché gli hanno trovato delle armi. O non si sa per quale altro fatto. Fatto sta che se lo sono portato in caserma e per tutto il giorno è rimasto in caserma e poi lo hanno rilasciato durante la notte. Scilla aveva motivato la cosa dicendo ai suoi compagni che i carabinieri gliel'aveva menata per tutto il giorno, ma che poi lo avevano lasciato andare perché non avevano in mano niente. I compagni ci avevano creduto, anzi erano felici che non era successo niente di grave, ma neanche nella maniera più lontana qualcuno ha avuto un dubbio e è arrivato a pensare che in quell'occasione era cominciata la sua collaborazione con i carabinieri. Scilla era del tutto insospettabile, tutti avrebbero messo la mano sul fuoco per lui e invece, quando i carabinieri gli hanno fatto la proposta di collaborare, lui ha accettato e lo hanno lasciato andare e poco dopo c'è stato l'agguato e la morte di Cotogno. E poi, quando ha finito di denunciare tutti i suoi compagni, Scilla sparisce, non si sa, forse gli hanno dato un passaporto, dei soldi e sparisce all'estero. Sulla morte di Cotogno, la conferma che il responsabile era Scilla, Ortica l'ha avuta direttamente da Valeriana, che aveva incontrato poco prima di essere arrestato. Aveva incontrato Valeriana per caso, davanti a una farmacia. Era parecchio che non la vedeva e quasi non la riconosceva. Aveva sentito dire che era inscimmiata, ma gli ha fatto impressione quando l'ha vista com'era ridotta Valeriana. Si vede che quel giorno era in crisi d'astinenza, che non trovava roba per farsi. Era conciata che non posso spiegarti, mi ha raccontato Ortica. Piangeva, urlava, era fuori dalla farmacia e urlava, aiutatemi, nessuno vuole darmi il metadone. Ho fatto il giro di tutte le farmacie, di tutti i paesi, nessuno mi vuole dare il metadone. Questi bastardi di farmacisti di merda, li ammazzo tutti, sto male, sto impazzendo. Non l'ho più rivista per una settimana. Poi un giorno mi ha aspettato sotto casa. Era vestita come l'ultima volta, con la stessa cuffia di lana nera calcata sulla fronte. Mi ha chiesto se le potevo trovare dei soldi, perché con Nocciola era sotto di 1 milione. Nocciola era diventato lo spacciatore della zona. Questa era un'altra cosa che ho saputo da Ortica. Valeriana vendeva per lui l'eroina, ma i soldi se li era presi tutti per farsi lei. Insomma, era nei casini e non poteva più rivolgersi a nessuno. Aveva debiti dappertutto, parlava ininterrottamente e diceva che voleva smettere, che adesso prendeva il metadone perché voleva smettere, ma che prima doveva sistemare il debito con Nocciola. Non aveva paura di lui, quanto del suo giro di amici, che erano capaci di fare storie pesanti con quelli che non pagavano. L'avevano già minacciata e Nocciola non si era messo in mezzo, se ne lavava le mani e avrebbe sicuramente lasciato fare ai suoi amici. Siamo andati in un bar, si è tolta la giacca a vento ma teneva sempre in testa la cuffia di lana nera che le sembrava incollata sulla testa. I capelli, ti ricordi che bei capelli aveva, biondi, lunghi, adesso le cadevano sulle spalle a ciocche, impastate di un colore sporco, aveva la faccia sudata e giallognola, gli occhi infossati e cerchiati da occhiaie, così scavate che sembravano delle rughe. Parlava in continuazione, facendo scorrere su e giù continuamente le unghie sulle coste dei pantaloni di velluto. È stato quella volta lì al bar che Valeriana ha raccontato a Ortica la storia della morte di Cotogno. Si erano dati un appuntamento in quell'appartamento dove avevano avuto quella famosa riunione. Cotogno aveva detto a Valeriana, prima di andarci, che aveva un appuntamento con Scilla, ma Scilla non era andata all'appuntamento e invece c'erano andati i carabinieri. Sono entrati nell'appartamento e hanno sparato subito. Evidentemente hanno voluto vendicare il carabiniere che era stato ucciso da poco. E da quel momento Scilla è scomparso dalla circolazione e c'è stata una serie di arresti, tutti compagni che avevano avuto dei rapporti con Scilla. E alla fine anche Ortica, che con le storie di Scilla non c'era mai entrato, niente, ma probabilmente perché Scilla lo odiava. Abbiamo mangiato l'insalata di riso fredda che avevo rimediato e delle sardine in scatola. Ortica mi ha detto che di China nessuno ne sapeva più niente da un pezzo. Era scomparsa, completamente volatilizzata. Lui l'aveva vista l'ultima volta in sede, quando si stavano facendo le prove della radio. Io preferivo non parlare di China. Abbiamo mangiato il budino che era schifoso. Poi Ortica ha fatto un grande sorriso e ha tirato fuori dal taschino dei jeans una caccola di fumo. L'ha guardata contro luce e mi ha detto: "Sai che storia ho dovuto fare per portarla fin qui? Ci siamo seduti sul materasso e ci siamo fatti uno spinello. Il fumo era buonissimo e ci siamo messi a ridere tutti e due." Ortica rideva sempre più forte, rideva come un matto, gli sono venute le lacrime agli occhi. Domani abbiamo il processo, ti rendi conto? Domani ci portano lì e ci fanno un bel processo. Io non ho la minima idea, ma tu hai un'idea co cosa gli diciamo? Ha smesso di ridere, anche se sembrava che rideva ancora, ma sulla faccia aveva una smorfia. Io ho detto tanto, ci daranno lo stesso un sacco di anni. A tutti, qualsiasi cosa gli andiamo a dire o non dire. La fiamma a candela del fornello stava scendendo, finché si è spenta del tutto. Io non vedevo quasi più Ortica lì al buio. Gli ho detto qualche volta, mi chiedo adesso che tutto è finito, mi chiedo che cosa ha voluto dire tutta questa nostra storia, tutto quello che abbiamo fatto, che cosa abbiamo ottenuto con tutto quello che abbiamo fatto. Lui ha detto: "Non credo che è importante che tutto è finito, ma credo che la cosa importante è che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e che pensiamo che è stato giusto farlo. Questa è l'unica cosa importante, io credo." Ortica mi ha passato lo spinello per l'ultimo tiro e gli ho chiesto della radio, come aveva funzionato la radio. Ortica si è messo a ridere. La radio era tutto pronto, c'era tutto il materiale. C'era la frequenza, c'era anche il telefono. Avevamo fatto tutte le prove di voce con la voce di China. Uno, due, tre, prova, rideva. Siamo riusciti a dire solo uno, due, tre, prova. C'era tutto lì, pronto. Bastava schiacciare un pulsante e parlare, ma non avevamo più niente da dire. Nella sede non ci andava più nessuno. Ormai ogni giorno capitava un disastro nuovo. Uno che arrestavano, uno che impazziva, uno che spariva, uno che si suicidava. Tutti sono spariti e non c'era più niente da dire. E così tutto è rimasto lì, a coprirsi di polvere. Il trasmettitore, la piastra, lo stereo, l'amplificatore, il microfono e la voce di China. Non vuole rispondere, mi dice la voce nel microfono del presidente, e la sento alle mie spalle rimbombare. Alzo la testa e guardo quelle teste che mi guardano dall'alto, dietro i loro occhiali scuri. Mi sento sprofondato in basso, sulla mia sedia, con i carabinieri in piedi dietro di me, e sopra quella fila di teste asserragliate, dietro il bancone che mi guardano con ostilità e disprezzo, tutti mi guardano nell'aula. Gli avvocati, i giornalisti, lo scarso pubblico di parenti e compagni. Nella gabbia, i carabinieri sparsi dappertutto, tutti guardano me, tutti aspettano me, aspettano che parlo. Anch'io aspetto, Mi sembra che aspetto da sempre, che il tempo si è fermato. E adesso cosa faccio? Cosa dico? Stavo lì, immobile, aspettando non so che cosa. Ho fatto sì con la testa, per dire che volevo rispondere. E subito il presidente, senza neanche guardarmi, mi chiede se mi ritengo colpevole o innocente. E allora io dovevo cominciare a parlare, visto che avevo fatto sì con la testa. Ho fatto un grande sforzo, la bocca secca che mi bruciava, e senza guardare nessuno, guardavo solo il legno del bancone, dritto davanti ai miei occhi. Ho detto che prima di rispondere bisognava prima intendersi sul significato di queste parole, perché non era detto che per me e per loro queste parole, colpevole o innocente, avevano lo stesso significato. E allora bisognava prima chiarire, capire. Stavo dicendo più o meno una cosa del genere e ho sentito un urlo dal pubblico ministero che mi interrompeva, dicendo che dovevo rispondere alla domanda e non fare inutili giochi di parole. Ho avuto subito la reazione di alzarmi e di ritornarmi nella gabbia. Non l'ho fatto perché mi sentivo inchiodato, incollato su quella sedia. Adesso intorno a me c'era il silenzio. Allora ho aspettato un momento, poi ho ripreso. Ho detto, allora diciamo così, voi parlate, mi accusate, voi dite banda armata, che io sono stato, ho partecipato a una banda armata, che sono un sovversivo. Il presidente mi interrompe, no, no, dice, non ci siamo, non sono io che dico questo, e picchia col palmo della mano sulla pila di fascicoli che ha lì davanti, non sono io che dico questo. Questi sono gli atti, e picchia ancora con la mano sui fascicoli. È da tutti questi atti che il codice penale desume il reato di banda armata. È sulla base di questi atti che noi dobbiamo discutere e che lei mi deve rispondere, perché è sulla base di questi atti che stiamo facendo questo processo. A questo punto sento la voce del mio avvocato dietro di me, che dice: «Vorrei, se il presidente me lo consente», ma il presidente non consente, anzi si infuria e grida all'avvocato che lui adesso non consente niente, che l'avvocato attende il suo momento. L'avvocato tenta di insistere ancora e dice: «Io credo di avere il diritto». «Quale diritto?» grida il presidente. «Il diritto lo stabilisco io qui dentro, sono io che dirigo questo dibattimento». Dalla gabbia parte qualche grido, qualche fischio. Il pubblico ministero si alza in piedi e punta il dito verso la gabbia e urla, ma io non sento che cosa urla, perché adesso tutti urlano. Il presidente urla più di tutti nel microfono. I carabinieri si agitano su e giù, fuori dalla gabbia. Il presidente urla più forte di tutti. «Basta, silenzio, ancora una parola e faccio sgomberare l'aula». Aspettano ancora tutti un'altra volta che ricomincio a parlare. Il presidente si è calmato. Agita la mano. «Su, su, andiamo avanti». Allora io dico: «Stavo dicendo che io non capisco che senso ha da parte mia dichiarare di essere innocente o colpevole, perché non è che voglio negare, anzi rinnegare quello che ho fatto, quello che sono stato, perché se ho pensato che questa società in cui viviamo va cambiata». Il presidente mi interrompe. «Ma lei si deve rendere conto che qui non stiamo processando delle idee, ma dei fatti contemplati dal codice penale, come reati. Ma allora, dico io, perché cominciate accusandomi di essere un terrorista? Queste sono idee, non sono forse idee queste?» Ho detto io. Il presidente alza un dito. «Ma sono idee che portano dritte al sangue, che hanno portato a un lago di sangue. Lei si dimentica o vuole volutamente dimenticare tutti i morti che ci sono stati, che sono stati il seguito naturale delle idee e dei comportamenti sovversivi?» Allora io dico: «A parte che io comunque credo che non sono accusato di nessun morto, di nessun fatto di sangue». Ma il pubblico ministero mi interrompe con un urlo indignato. «Questo è un atteggiamento cinico e sprezzante». Una voce dalla gabbia, riconosco la voce di Ortica, gli grida: «Buffone!» Il presidente dice che non tollera le interruzioni e quel linguaggio e ordina che Ortica sia espulso dall'aula. C'è stata una grande confusione. Tutti che urlavano, dentro la gabbia, gli avvocati che protestavano, il pubblico ministero che agitava le braccia, il pubblico che rumoreggiava. finché si è sentito l'urlo del presidente: sospensione! E così è finito il mio interrogatorio. Tutto quello che ci è stato raccontato finora è una storia insensata, ma è soprattutto una storia criminale. Così ha cominciato la sua requisitoria alla fine del processo il pubblico ministero. Dall'altro del suo banco, dritto in piedi, avvolto nella toga nera, sotto l'enorme orribile mosaico col trionfo delle azzurre forze del male, la bocca premuta sulla palla nera del microfono e la voce che rimbomba nel silenzio dell'aula, in quella gabbia è rinchiusa la follia di questi anni. Tutte le teste dei giurati si girano verso la gabbia, tutte insieme. Bisogna allontanare ogni tentazione di giustificazione sociale, politica, culturale. La responsabilità diretta o indiretta nei fatti delittuosi che hanno insanguinato il paese, noi dobbiamo. Le teste dei giurati tornano a girarsi verso il pubblico ministero. Cercando di gettare nel caos le istituzioni fondamentali della nostra democrazia, la famiglia, lo studio, il lavoro, davanti a voi non avete dei rivoluzionari, ma degli uomini e delle donne trasformati dall'odio contro la società in belve inferocite. Le teste dei giurati si girano tutte verso la gabbia senza ideali, se non quelli della distruzione e della morte. Alle spalle di questi individui non c'è cultura, c'è la pedagogia della violenza. Ascoltatemi bene. Le teste dei giurati si girano verso il pubblico ministero, tutte insieme, seminando odio nelle menti immature e sprovvedute delle giovani generazioni, approfittando bassamente della libertà la nostra democrazia offre indistintamente a tutti, per ordire il loro disegno eversivo mirante a battere le basi della pacifica e civile convivenza. Ma chi semina vento raccoglie tempesta. Il pubblico ministero ha alzato la voce e sembra mangiare il microfono. Si sporge in avanti, appoggiandosi con la punta delle dita sul bordo del banco. Non c'è cultura in questa storia, non ci sono idee in queste farneticazioni senza punti né virgole. C'è solo predicazione dell'ignoranza e della violenza, del rifiuto totale, della negazione pura. I profeti di sventura che hanno tramato alle nostre spalle per anni impuniti, che hanno armato le mani di questi giovani sciagurati, che hanno portato tanti lutti in famiglie oneste, innocenti, laboriose, eccoli, ora davanti a voi. Le teste dei giurati si girano insieme verso la gabbia per un istante, poi tornano a fissare il pubblico ministero, che ormai grida alzando le braccia al cielo. Noi tutti che ci eleviamo a difesa delle istituzioni democratiche e delle leggi dobbiamo dire che l'assismo irresponsabile che si è verificato ha aperto atteggiamento di complice condiscendenza. I giurati tendono le teste perché la voce del pubblico ministero rimbomba tanto che le sue parole sono ormai comprensibili. Vero e proprio fiancheggiamento. Da parte bene oggi, intellettuali, bramosi, ci sentiamo di dire che credevano di fare la storia. Nessun dubbio, nessuna clemenza. Questi individui dalla storia saranno condannati. Punire fino in fondo il braccio incolto di queste menti perverse, monito alla parte sana dei giovani di questo paese, finirà nella spazzatura della storia. A quelli che verranno dopo di noi schiacciare questo drago mostruoso. Libri ribelli. Libri ribelli.